ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. Il Nelly, una iole da crociera, ruotò sull'ancora senza alcun tremolio delle vele e si immobilizzò. La marea era alta, il vento si era quasi del tutto placato e, dal momento che stavamo discendendo il fiume, l'unica cosa da fare era fermarsi ad aspettare il riflusso. L'ultimo tratto del Tamigi verso il mare si stendeva davanti a noi, come l'inizio di una via d'acqua senza fine. Al largo, mare e cielo erano saldati assieme senza una giuntura, e in quello spazio luminoso le vele marrone dei barconi spinti a monte dalla marea parevano bloccate in rossi grappoli di tela fortemente appuntiti tra un luccichio di livarde verniciate. Una nebbiolina era calata sulle basse sponde che scorrevano piatte a dissolversi nel mare. Sopra Gravesend l'aria era cupa e più lontano ancora pareva condensarsi in una lugubre foschia che incombeva immobile sulla più grandiosa e la più grande città della terra. Il direttore delle compagnie era il nostro comandante e il nostro ospite. Noi quattro guardavamo con affetto la sua schiena mentre in piedi sui masconi contemplava il mare. Su tutto il fiume non c'era niente che avesse un aspetto così nautico. Sembrava un pilota che per un marinaio è l'incarnazione stessa dell'affidabilità. Era difficile rendersi conto che il suo lavoro non si svolgeva laggiù nell'estuario luminoso, ma alle sue spalle, sotto quel buio incombente. C'era tra noi, come ho già detto da qualche parte, il vincolo del mare, che oltre a tenere uniti i nostri cuori nei lunghi periodi di separazione, ci permetteva di tollerare le chiacchiere e persino le convinzioni degli altri. L'avvocato, il migliore dei vecchi, aveva diritto, per i suoi molti anni e le sue molte virtù, all'unico cuscino sul ponte e se ne stava sdraiato sull'unica coperta. Il contabile aveva già tirato fuori una scatola di domino e giocherellava a erigere costruzioni con le tessere. Alla sua destra, a poppa, sedeva Marlowe, con le gambe incrociate e la schiena appoggiata all'albero di mezzana. Aveva le guance scavate, la carnagione giallastra, la schiena diritta, l'aspetto ascetico e, con le braccia penzoloni e i palmi delle mani rivolte in fuori, faceva pensare a un idolo. Il direttore, dopo aver accertato che l'ancora avesse preso bene, venne a poppa e si sedette in mezzo a noi. Scambiammo pigramente qualche parola, poi a bordo del Panfilo calò il silenzio. Per non so più quale ragione non giocammo a domino. Eravamo d'umore meditativo e capaci soltanto di quella placida contemplazione. L'acqua brillava tranquilla. Il cielo, senza neanche una macchiolina, era una benigna immensità di luce incontaminata. Persino la nebbiolina sulle paludi dell'Essex era come un tessuto traslucido e sfolgorante, calato dai pendii boscosi a ornare le basse spiagge con le sue diafane pieghe. Soltanto a occidente la foschia, che sovrastava i tratti più a monte, diventava di minuto in minuto più fitta, come irritata dall'avvicinarsi del sole. E infine, nella sua curva e impercettibile caduta, il sole discese e da bianco scintillante divenne di un rosso opaco, senza raggi e senza calore, come se stesse per spegnersi all'improvviso, colpito a morte dal contatto con quella foschia incombente su masse di uomini. Immediatamente cambiò qualcosa anche nell'acqua e la quiete divenne meno brillante, ma più profonda. Il vecchio fiume, in quel largo tratto, riposava tranquillo nel declinare del giorno, dopo secoli di buoni servigi resi alla razza che popolava le rive, distendendosi con la pacata dignità di una via d'acqua che porta ai confini più remoti della terra. Guardammo quel venerabile fiume, non nel vivido rigoglio di una breve giornata che arriva e scompare per sempre, ma nella luce augusta di memorie persistenti. In effetti, per un uomo che ha, se vogliamo usare una frase fatta, dedicato la vita al mare, con devozione e con affetto, non c'è niente di più naturale che evocare su questi ultimi tratti del Tamigi il grande spirito del passato. La corrente di marea fluisce e rifluisce in una attività incessante, affollata dei ricordi degli uomini e delle navi che ha riportato al riposo del paese natio o alle battaglie del mare. Aveva conosciuto e servito tutti gli uomini di cui la nazione è fiera, da Sir Francis Drake a Sir John Franklin, cavalieri tutti, con o senza titolo, i grandi cavalieri erranti del mare. Aveva portato tutte quelle navi cui nomi sono come gioielli sfavillanti nella notte del tempo, dal Golden Hind, che tornava coi fianchi rotondi colmi di tesori per ricevere la visita di Sua Maestà la Regina e uscire così dalla saga gigantesca, all'Erebus e al Terror, partiti per altre conquiste che non tornarono mai più. Erano salpati da Deptford, da Greenwich e da Erith, avventurieri e coloni. Navi di re e navi di uomini della borsa, capitani, ammiragli e loschi trafficanti nei mercati dell'Oriente e generali delle flotte dell'East India, cercatori d'oro e cacciatori di gloria, tutti erano partiti da questo fiume, muniti di spada e spesso di fiaccola, messaggeri della forza che è all'interno della terra, portatori di una scintilla del fuoco sacro. Quale grandezza non aveva galleggiato nel riflusso di questo fiume verso il mistero di un mondo sconosciuto? Sogni di uomini, semi di comunità, germi di imperi. Il sole tramontò. L'oscurità scese sul fiume e sulle rive apparvero le prime luci. Brillava intenso il faro di Chapman, una costruzione a tre gambe eretta su una distesa di fango. Luci di navi si muovevano sul tratto navigabile, un grande trambusto di luci che andavano e venivano. E più a occidente, sulle parti a monte del fiume, il luogo della città mostruosa era ancora sinistramente segnato in cielo, foschia incombente alla luce del sole, livido bagliore sotto le stelle. «E anche questo», disse Marlowe all'improvviso, «è stato uno dei luoghi bui della terra. Era il solo di noi che ancora dedicasse la vita al mare». Il peggio che si potesse dire di lui era che non era un tipico rappresentante della propria classe. Era un marinaio, ma era anche un girovago, mentre i marinai in genere conducono, se così si può dire, una vita sedentaria. Hanno una mentalità casalinga e la casa, la nave, se la portano sempre dietro e con essa il loro paese, il mare. Ogni nave assomiglia moltissimo a tutte le altre e il mare è sempre lo stesso. Nell'immutabilità del loro ambiente, le terre straniere, le facce straniere, l'immensità mutevole della vita scivolano via, velate non da un senso di mistero, ma da un'ignoranza un po' sprezzante. Perché per un marinaio non c'è niente che sia misterioso tranne il mare, che è l'amante della sua esistenza, imperscrutabile come il destino. Per il resto, dopo l'orario di lavoro, una passeggiata o un po' di bisboccia a terra ogni tanto bastano a svelargli il segreto di tutto un continente e s'accorge in genere che quel segreto non valeva la pena conoscerlo. I racconti dei marinai hanno una semplicità diretta. Il loro significato sta tutto nel guscio di una noce schiacciata. Ma Marlowe non era tipico, se non nella tendenza a spararle grosse. E per lui il significato di un episodio non era dentro, come un gheriglio, ma fuori, e avviluppava il racconto che lo rivelava come la luce rivela una foschia, come accade per quegli aloni brumosi resi a volte visibili dall'illuminazione spettrale della luna. La sua frase non era certo sorprendente. Era ciò che ci si aspettava da Marlowe. Fu accolta in silenzio. Nessuno si prese la briga anche solo di grugnire e subito dopo disse, molto lentamente, «Stavo pensando a tempi molto lontani, quando i Romani vennero qui per la prima volta, 1900 anni fa, l'altro giorno. Una luce scaturisce da allora da questo fiume. I cavalieri, dite? Sì, ma è come una fiamma che percorre veloce una piana, come un lampo tra le nubi. Noi viviamo in quel guizzo, e che possa durare fin quando continuerà a ruotare questa vecchia terra. Ma qui, allora, era buio. Immaginate le sensazioni del comandante di una bella, come vogliamo chiamarla, trireme del Mediterraneo, cui si ordina all'improvviso di andare al nord, di attraversare in gran fretta l'intera terra dei Galli, di assumere il comando di una di quelle imbarcazioni che i legionari, e dovevano essere anche loro una straordinaria congrega di uomini in gamba, sapevano costruire a centinaia in un mese o due, se possiamo credere a ciò che leggiamo. Immaginatelo qui, ai confini del mondo, con un mare color del piombo, un cielo color del fumo, una nave non più rigida di una fisarmonica, a risalire questo fiume con un carico di provviste o di ordini o di quello che volete voi. Banchi di sabbia, paludi, foreste, selvaggi, poco o niente da mangiare per il palato di un uomo civile e niente da bere se non l'acqua del Tamigi. Niente vino di Falerno qui. È impossibile scendere a terra. Qua e là un accampamento militare, sperduto in questa terra selvaggia come un ago in un mucchio di fieno, e freddo, nebbia, tempesta, malattia, esilio e morte, morte che s'appiatta nell'aria, nell'acqua, nella selva. Dovevano morirci come mosche. Oh sì, lui ce la fece. Ce la fece benissimo, sicuramente, e senza neppure pensarci troppo, se non dopo, per vantarsi delle proprie imprese, forse, di tutto questo periodo. Erano abbastanza uomini per affrontare le tenebre, e forse lo rincorava la prospettiva di una possibile promozione alla flotta di Ravenna, se aveva buoni amici a Roma e se sopravviveva a questo clima spaventoso. O pensate a un giovane e rispettabile cittadino in toga, forse un po' troppo dedito ai dadi, mettiamo, che arriva qui al seguito di un prefetto o di un esattore fiscale o anche di un mercante per rimettere in sesto il suo patrimonio. Sbarcare in una palude, marciare nei boschi e sentire in qualche avamposto dell'interno la natura selvaggia, assolutamente selvaggia, chiudersi intorno a lui, tutta quella vita misteriosa che si agita nella foresta, nelle giungle, nel cuore dei primitivi. Non esiste iniziazione a questi misteri. È costretto a vivere nel cuore dell'incomprensibile, che è anche detestabile, e ha un fascino che comincia ad agire su di lui, il fascino dell'orrore, capite? E immaginate i rimpianti sempre più intensi, il desiderio di fuggire, il disgusto impotente, la resa, l'odio. Fece una pausa. «Badate», riprese alzando un avambraccio con il palmo della mano in fuori, e adesso, con le gambe incrociate davanti a sé, aveva l'aspetto di un Buddha predicante vestito all'europea e senza fior di loto. «Badate, nessuno di noi avrebbe esattamente le stesse sensazioni. Ciò che ci salva è l'efficienza, il culto dell'efficienza. E in questo campo loro non volevano molto». Non erano colonizzatori, la loro amministrazione era estorsione e basta, sospetto. Erano dei conquistatori e per questo è sufficiente la forza bruta, qualità di cui non c'è proprio da vantarsi quando la si ha, perché la forza è solo un accidente derivato dalla debolezza di altri. Arraffavano tutto quello che potevano per il semplice gusto di arraffare. Rapine con violenza, massacri su vasta scala e uomini che si buttavano alla cieca, come è giusto che faccia chi affronta le tenebre. La conquista della terra, che significa soprattutto portarla via a gente che ha la pelle di un altro colore o il naso leggermente più piatto del nostro, non è certo una bella cosa se la esaminate con un po' di attenzione. Ciò che la riscatta è soltanto l'idea. L'idea che le sta dietro. Non una finzione sentimentale, ma un'idea. E una fede altruistica nell'idea. Qualcosa che si possa mettere su un altare e prostrarsi a essa e offrirle un sacrificio. Si interruppe. Fiamme scivolavano sul fiume, fiammelle verdi, rosse, bianche, che si inseguivano, si raggiungevano, si congiungevano, si incrociavano per poi separarsi lentamente o all'improvviso. Il traffico della grande città continuava sul fiume insonne nella notte sempre più fonda. Noi guardavamo aspettando con pazienza. Non potevamo far altro sino alla fine dell'alta marea. Ma fu solo dopo un lungo silenzio quando lui disse con voce esitante: «Immagino che voi altri ricordiate il periodo in cui divenni per un po' un marinaio d'acqua dolce, che capimmo di essere destinati, prima che iniziasse il riflusso, ad ascoltare la storia di una delle sconclusionate esperienze di Marlowe. Non voglio infastidirvi molto con ciò che mi accadde personalmente», cominciò, mostrando con questa frase la debolezza di tanti narratori, troppo spesso ignari di quello che il loro pubblico preferirebbe sentire. «Tuttavia, per capire ciò che provai, dovete sapere come arrivai laggiù, che cosa vidi e come risalii il fiume sino al luogo dove incontrai per la prima volta quel poveraccio. Fu il punto estremo della nostra navigazione e il punto culminante della mia esperienza. Parve in un certo senso far luce su tutto ciò che mi stava attorno e sui miei pensieri. Era qualcosa di cupo anche e di pietoso, ma per niente straordinario e neanche molto chiaro, no, non molto chiaro. Eppure pareva proiettare una sorta di luce. In quel tempo, ricorderete, ero appena tornato a Londra dopo un'indigestione di oceano indiano, di Pacifico e di mari della Cina, una ricca dose d'Oriente, 6 anni o pressappoco. E bighellonavo, intralciandovi nel vostro lavoro e invadendo le vostre case, come se avessi avuto dal cielo la missione di civilizzarvi. Per un po' fu molto bello, ma poi mi stufai di stare a riposo. E cominciai allora a cercarmi una nave, il lavoro più duro che ci sia al mondo, credo. Ma le navi non volevano nemmeno guardarmi. Così mi stufai anche di questo passatempo. Beh, quando ero ragazzino, avevo una passione per le carte geografiche. Contemplavo per ore il Sud America, l'Africa o l'Australia e mi perdevo in tutti gli splendori dell'esplorazione. A quei tempi c'erano ancora molti spazi vuoti sulla Terra e quando ne vedevo uno che sulla carta pareva particolarmente invitante, ma lo parevano tutti, ci mettevo sopra un dito e dicevo: «Quando sarò grande, ci andrò». Uno di questi luoghi, ricordo, era il Polo Nord. Beh, sinora non ci sono mai stato e in futuro non proverò certo ad andarci, il suo fascino è svanito. Altri luoghi erano invece sparsi intorno all'equatore e a ogni latitudine su entrambi gli emisferi. In alcuni ci sono stato e... beh, non ne parliamo. Ma ce n'era ancora uno, il più grande, il più vuoto, per così dire, di cui conservavo una gran voglia. Certo, a questo punto non era più uno spazio vuoto. Si era riempito, dopo la mia adolescenza, di fiumi e laghi e nomi. Aveva cessato di essere uno spazio squisitamente misterioso, una macchia bianca su cui un ragazzo poteva sognare la gloria. Era divenuto un luogo di tenebra. C'era però un fiume soprattutto, un fiume grande e possente, simile a un immenso rettile, con la testa nel mare, il corpo a riposo che si curva lontano in una campagna sterminata e la coda sperduta nelle profondità del paese. Guardandone la carta nella vetrina di un negozio, mi affascinava, come un serpente affascina un uccello, uno stupido uccellino. Ricordai allora che c'era una grossa azienda, una compagnia, che commerciava su quel fiume. Accidenti, pensai, su tutta quell'acqua dolce non possono commerciare senza imbarcazioni, senza battelli a vapore. Perché non farmene affidare uno? Continuai a camminare in Fleet Street, ma non riuscivo a sbarazzarmi di questa idea. Il serpente mi aveva incantato. Dovete sapere che quella società commerciale era una ditta del continente, ma io ho tanti conoscenti che vivono sul continente, perché costa poco ed è meno brutto di come sembra, a sentir loro. Devo purtroppo ammettere che cominciai a importunarli. Già questa era una novità per me. Non ero abituato a procurarmi le cose in questa maniera, capite? Andavo sempre per la mia strada e con le mie gambe, dove avevo deciso di andare. Non l'avrei mai creduto di me stesso, ma, vedete, non so per quale motivo sentivo che dovevo andare laggiù a qualsiasi costo. Per questo li importunavo. Loro dicevano: «Mio caro amico», e non facevano nulla. Allora, ci credereste? Provai con le donne. Io, Charlie Marlowe, misi di mezzo le donne per assicurarmi un lavoro. Gesù! Come vedete, l'idea mi stava facendo impazzire. Avevo una zia, una cara persona, piena di entusiasmo. Mi scrisse: «Sarà un piacere, sono pronta a fare qualsiasi cosa per te, è un'idea splendida. Conosco la moglie di un altissimo personaggio dell'amministrazione e anche un uomo che ha un'enorme influenza su, eccetera, eccetera, eccetera». Era fermamente decisa a fare carte false perché mi affidassero il comando di un battello fluviale a vapore, se questo era il mio desiderio. Ottenne l'incarico, naturalmente, e lo ottenni molto in fretta. A quanto pare la compagnia aveva appena avuto notizia che uno dei suoi capitani era stato ucciso durante una zuffa con certi indigeni. Era la mia occasione e mi rese ancor più ansioso di partire. Solo molti mesi dopo, quando tentai di recuperare ciò che restava del suo corpo, venni a sapere che la lite era sorta per un malinteso riguardante delle galline. Sì, due galline nere. Fresleven era così che si chiamava quell'uomo, un danese. Pensò di essere stato imbrogliato nell'affare e, sceso a terra, si mise a picchiare il capo del villaggio con un bastone. Oh, non mi sorprese per niente sentire queste cose e apprendere nello stesso tempo che Fresleven era l'essere più mite e tranquillo che avesse mai camminato su due gambe. Non dubito che lo fosse. Solo che già da un paio d'anni era laggiù a battersi per la nobile causa, capite? E probabilmente aveva sentito il bisogno di affermare in qualche modo la propria dignità. Fu così che gli accadde di percuotere spietatamente quel vecchio negro che lo guardava sbalordito, attorniato dalla folla dei suoi sudditi, finché un uomo, il figlio del capo, mi dissero, spinto alla disperazione dalle urla del vecchio, scagliò contro il bianco la lancia, che naturalmente si infilò tra le scapole senza incontrare ostacoli. Dopodiché l'intera popolazione fuggì nella foresta aspettandosi calamità di ogni genere, mentre il battello di cui Fresleven era il comandante ripartiva, anch'esso in preda al panico, agli ordini, credo, del motorista. Da allora nessuno parve preoccuparsi molto dei resti di Fresleven, finché non arrivai io a prendere il suo posto. E non potevo far finta di niente. Ma quando mi si offrì finalmente l'occasione di incontrare il mio predecessore, l'erba cresciutagli tra le costole era talmente alta da nascondere le ossa. Erano ancora tutte lì. L'essere sovrannaturale, una volta caduto, non era più stato toccato. E il villaggio era deserto. Le capanne si aprivano nere, putrescenti, tutte di sghimbescio entro i recinti abbattuti. Era stato colpito da una calamità, non c'è dubbio. E gli abitanti erano spariti. Un terrore folle li aveva dispersi. Uomini, donne e bambini, nella boscaglia, e non erano più tornati. Non so che fine avessero fatto le galline. Penso che siano state vittime della causa del progresso. Comunque fu grazie a questo glorioso episodio che ottenne l'incarico prima ancora che avessi realmente cominciato a sperarci. Mi diedi da fare come un matto per prepararmi e meno di 48 ore dopo stavo già attraversando la Manica per presentarmi ai miei datori di lavoro e firmare il contratto. E in pochissimo tempo arrivai in una città che mi fa sempre pensare a un sepolcro imbiancato. Un pregiudizio, certo. Non mi fu difficile trovare gli uffici della compagnia. Era la più grossa azienda del luogo e tutti quelli che incontrai ne erano tronfi. S'accingevano a gestire un impero oltremare e ad accumulare una sterminata quantità di denaro col commercio. Una strada stretta e deserta in un'ombra profonda, case alte, innumerevoli finestre con le veneziane, un silenzio mortale, erba che spuntava tra le pietre, imponenti passaggi per le carrozze a destra e a sinistra, portoni immensi, pesantemente spalancati. Mi infilai in una di quelle fessure, salii una scala pulita e disadorna, arida come un deserto, e aprii la prima porta che mi trovai davanti. Due donne, l'una grassa e l'altra magra, sedute su seggiole impagliate, lavoravano a maglia della lana nera. La magra si alzò e si avviò decisa verso di me, sempre sferruzzando e con gli occhi bassi, e solo quando già cominciavo a pensare di scostarmi dal suo cammino, come si farebbe davanti a un sonnambulo, si fermò e alzò il capo. Il suo vestito era semplice come il fodero di un ombrello. Si voltò senza una parola e mi precedette in una sala d'aspetto. Le dissi il mio nome e mi guardai attorno. Una tavola d'abete al centro, seggiole comuni lungo le pareti e a un'estremità una grande e lucente carta geografica segnata con tutti i colori dell'arcobaleno. C'era una grande quantità di rosso, bello da vedersi in qualsiasi momento, perché si sa che lì si lavora veramente. Un bel po' di blu, un pizzico di verde, qualche spruzzo arancione e, sulla costa orientale, una macchia purpurea a indicare il luogo dove i festosi pionieri del progresso bevono la festosa birra Lager. Io però non avrei raggiunto nessuno di questi colori. Sarei andato nel giallo, esattamente al centro. E lì c'era il fiume, affascinante e letale, come un serpente. Si aprì una porta e comparve una bianca testa di segretario dall'espressione comprensiva, e il suo indice ossuto mi attirò nel santuario. La luce era fioca e in mezzo era acquattata una pesante scrivania. Da dietro questo mastodonte veniva un'impressione di pallida pinguedine in finanziera. Il grand'uomo in persona. Era alto, a occhio e croce, 1,65 m, e teneva stretto in pugno il destino di milioni di persone. Mi diede la mano, mormorò vagamente di essere soddisfatto del mio francese e bon voyage. Circa 45 secondi dopo ero di nuovo nella sala d'aspetto con il segretario comprensivo che, pieno di rammarico e di simpatia, mi fece firmare un documento. Credo di essermi impegnato, fra l'altro, a non rivelare mai a nessuno i segreti commerciali. E non ho intenzione di farlo.